Benvenuti alla 16ª puntata di Cialtroni nello spazio. C'era il microfono di Marco giù, non so perché. Perché Alessandro sempre urla che faccia. Bene, allora siamo alla 16ª puntata di Cialtroni nello spazio. Oggi abbiamo anche un consulente musicale di eccezione, Andrea Gelmini, che abbiamo già ascoltato nelle nostre trasmissioni precedenti, che era venuto un giorno a trovarci in trasmissione. Ciao Andrea. Ah, iniziamo con la scaletta di quest'oggi, ce la presenti tu Alessandro? No, non ce la presenta Alessandro. Sì, la presento io, anche se quei maledetti non la chiariscono sempre bene prima. Allora, oggi andremo a parlare, dunque partiamo di un evento che c'è stato oggi. C'è stato ieri? No, era oggi. 17 notizia... oggi, ieri c'è stato? Sì, ieri c'è stato. Ma siccome noi registriamo in differita e lo diciamo tutte le volte... Praticamente domani. Noi registriamo il martedì. Il 17 di maggio si è tenuta una manifestazione nazionale, in un certo senso manifestazione, comunque un'iniziativa nazionale relativa ai brevetti software, all'opposizione contro i brevetti software, e tra poco sentiremo il senatore dei Verdi Fiorello Cortiana che ci racconterà com'è andata e perché è stata organizzata. La questione dei brevetti software è, diciamo... ultimamente è abbastanza una notizia di cronaca, in quanto recentemente è passata una direttiva europea, almeno state cercando di far passare questa direttiva europea sui brevetti software per renderli efficaci anche in Europa, come sono già del resto negli Stati Uniti, e questo ha tutta una serie di problematiche che sulla distribuzione del software, sulla creazione di nuovo software e diciamo sul libero contenuto del software. Legato a questo, o comunque parzialmente legato a questo, andremo a parlare dei formati video. Dopo aver analizzato i formati grafici, parleremo un attimino di come si fa a mettere un video dentro un contenitore digitale, dentro un file. Faremo un po' di teoria formati video. E vedremo appunto come i vari formati video siano o comunque minaccino l'indipendenza di alcuni software che sono prodotti dalla comunità open source in questo momento. Quindi insomma, nella giornata di oggi si darà un'occhiata sia come vedere dei video, cioè che tipo di programmi usare, per esempio con una presentazione di quelli che sono aperti, meno aperti e chiusi, di cui non parleremo, e poi anche un accenno all'editing dei video, ma proprio solo un accenno a cui ci riserviamo di dedicare più spazio. Intanto la musica che stiamo ascoltando, che cos'è? Questa non la riconosci, nonostante sia sempre quella, sono sempre i Chemical Brothers. Nella versione remixed pubblicata sul web, Francesco è sordo. No, in realtà ci parlerà di un gruppo Andrea. Ci tenevo a proporvi l'ascolto di questo gruppo per più ragioni. La prima sono perché sono poi la dimostrazione palese di come l'aumentare della potenza dei computer e delle possibilità che questi danno abbiano comportato la possibilità di ingegnarsi artisti a più livelli, anche senza budget stratosferici e quant'altro, in questo caso specifico per quanto riguarda la composizione musicale. In secondo luogo, perché in qualche modo vanno a toccare in maniera abbastanza pesante tutto quello che riguarda il copyright e quant'altro, nel senso che quello che sentirete è il gruppo dei Claptons, che fino ad oggi ha realizzato 4 album con una tecnica abbastanza particolare, ossia remixando, anche se remixando è un po' di... non è esattamente quello che sentirete, comunque prendendo tracce musicali e tracce di cantato da vari gruppi, quindi andando a mixare cose come i Queen insieme ai Beastie Boys, eccetera, realizzando qualcosa che è notevole e dal punto di vista tecnico vedrete che la qualità dà a pensare a una classica pubblicazione destinata al commercio. E dal punto di vista poi della genialità e della qualità del risultato. Non si sa chi siano in verità, nel senso che non si sono mai proposti nel pubblico, ma semplicemente hanno reso disponibili dal loro sito, che è www.claptons, scritto con la K, quindi Kleptons, com hanno proposto le loro tracce, ed è qui interessante perché entra la parte di copyright, nel senso che le major, invece di apprezzare un lavoro che ha veramente del geniale, quindi proporlo e sponsorizzarlo, hanno diffidato la continua produzione. Ora, questo ha significato poi banalmente spostare tutto quello che era la produzione di tracce dal web al peer-to-peer, in maniera tale di risolvere il problema della distribuzione in maniera drastica. E appunto quello che adesso andiamo a ascoltare è la dodicesima traccia del CD A Night at the Hip Hop Opera, che è appunto un CD di tributo ai Queen che contiene tracce loro rifatte. Meanwhile, at another part of the studio. Come here a second. Now put your nose right here. Now, sniff. That's power. Sniff again. Go ahead. If you are not able to make the adjustment yourself, it will, of course, be necessary to get in touch with your dealer. Excuse me, I heard the word from word of mouth that you were into booking flights. My travel agent took a trip up north and I need to book a flight tonight. I enjoy the getting away from day to day stress, so I need to leave soon. If that's the case, I have no space, but for later I'll be sure to leave. Nah, that's not gonna do. I know that you can find another flight leaving the same time. I need to get aboard, I can't afford any penalties to sit in the main cabin. No, that isn't right. It doesn't matter. What does the money? Show the cash and the ticket is yours. Cool, here's your green. Now I'm out of your scene, but I'll be back to purchase some more. Sugar. I want some more. Now I'm coming down out of the clouds and I'm running in a turbulence. Need to get up, up higher again. Feeling like my soul's on fire again. Don't need the bell for safety. Show me where the safe be so I can't take me another trip to the agency. Cause the travel unraveled my woes, but now the craving grows. So I need to get a ticket cause man oh why? Need to get aboard a plane again. Some say I'll crash, but it's my life in cash. Gonna ride it out until the end. Numb to the lift of the whip, drone when I vacate frequently. And I got freaking flyer when I retire to death. Tell him that the big C sent me. And a lot of others, man, I'm not the only brother at the airport leading the lift. Or was it agent till I was caught and brought to an unfair court pleading the fifth. More than you know it. More than you know it. More than you know it. More than you know it. Do you want me, baby? I want some more. Do you want me, sugar? I want some more. You are so full. I want some more. You are wrong. I want some more. You are done. I want some more. You are on years. I want some more. You are bankrupt. I want some more. You are license. I want some more. You are false. I want some more. You are fierce. I want some more. No, you are. I want some more. Do you want me, baby? I want some more. Do you want me, sugar? I want some more. Allora, entriamo nel vivo quindi della trasmissione di oggi. Raccontavamo prima che c'è stata una lettera che è stata mandata da diverse realtà, tra cui la Free Software Foundation e dell'Europa, la Linux Society italiana, la Media Innovation Unit e varie altre associazioni, tra cui in primo luogo il Linux User Group e le associazioni che si battono contro la brevettabilità del software, una lettera aperta ai parlamentari italiani per sostenere la discussione in Senato della mozione contro i brevetti software. Tra l'altro la giornata del 17 di maggio è stata una giornata in cui ci sono state delle iniziative proprio a sostegno della lotta contro la brevettabilità del software. Noi ne abbiamo parlato con il senatore dei Verdi Fiorello Cortiana, adesso ascoltiamo l'intervista con lui. Siamo in collegamento con il senatore Fiorello Cortiana, che oggi è stato il promotore di una mobilitazione nazionale che si è tenuta contro la brevettabilità del software. Ciao Fiorello, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Innanzitutto ti volevamo chiedere magari delle valutazioni su come è andata la giornata di oggi, prima di entrare nel dettaglio dei motivi che hanno portato questo, che ne abbiamo già parlato diverse volte. Ma la valutazione risiede in questa informazione che vi do. Il Presidente Pera mi ha chiesto di rimandare la replica del Governo e dichiarazioni di voto finali e il voto a giovedì prossimo, perché il Ministro Stanca ha chiesto di essere presente e di essere lui per il Governo a far questo. Stanca, in sede del Consiglio dei Ministri d'Europa, si era astenuto rispetto alla direttiva con un giudizio critico sulla direttiva. Spero e mi auguro che questo sia un segno importante di consapevolezza e di condivisione del senso della mozione, che peraltro è stata firmata dal parlamentare di tutto lo schieramento. Vedremo tra una settimana. Ecco, entrando un attimo magari nel dettaglio, possiamo semplificare e dire in pochi minuti perché bisogna opporsi alla brevettabilità del software? Perché nessuno consentirebbe mai di brevettare le note, gli accordi, gli stili musicali o i modelli di costruzione di una canzone che mettono un ritornello a un certo punto a un altro. Nessuno permetterebbe mai di brevettare un alfabeto, una grammatica, dei modelli di narrazione che prevedono il rapporto lui, lei, l'altro o lui, lei, l'altra, o degli incipiti di romanzo o una modalità di narrare in prima persona o in terza persona. Sostanzialmente nessuno brevetterebbe mai gli elementi costitutivi della conoscenza, e nell'era del digitale la conoscenza che si produce attraverso il digitale, attraverso gli algoritmi, non è una conoscenza, un settore, ma è la struttura di connessione per ogni tipo di conoscenza, riguardi la musica piuttosto che la narrativa, il cinema o fare delle medicine o scambiarsi informazioni per studiare a distanza all'università. Ecco, ci sono dei vantaggi per l'Europa a evitare questa brevettabilità del software nei rapporti con gli Stati Uniti? Nel modo più assoluto sì, credo che passi anche attraverso questa questione uno dei grandi scontri sui commons internazionali, sui beni comuni, come capiterà poi per l'acqua, come oggi per le fonti energetiche, quindi una delle grandi modalità per l'Europa di essere un fattore di riequilibrio nel mondo rispetto a un destino subordinato all'impero delle multinazionali americane. Per questo motivo questa questione è importante, perché riguarda una questione strategica come la conoscenza, riguarda il digitale, riguarda la possibilità che l'Europa possa produrre e sviluppare software senza sottostare alla prepotenza delle capacità di spesa che potrebbero avere le multinazionali americane nel chiamare a contenzioso legale qualsiasi operatore piccolo, medio o anche grande europeo reo, a secondo loro, di aver infranto dei brevetti che per ora in Europa non ci sono, mentre laddove ci si uniformasse al modello statunitense nel giro di pochissimi giorni verrebbero brevettate a decine e decine di migliaia le idee e le soluzioni del software. Senatore Fiorello Cortiana, la ringraziamo di essere stata con noi. A presto. Brevi considerazioni a latere così molto velocemente. Per chi abbia preso in mano il diritto d'autore proprio in termini di codice o anche tutti gli aspetti che ruotano attorno a questo, copyright e quant'altro, c'è una piccola trappola in cui si può cadere, nel senso che normalmente si tende a dire, beh, tutto sommato, il codice che norma a questo punto il diritto di autore su quello che possono essere produzioni come libri, ma anche produzioni industriali o la brevettabilità di componenti scientifici piuttosto che materiale prodotto, partendo dal calcestruzzo, arrivare su via ai modi di produzione dell'energia, eccetera, può tipicamente trovarsi spiazzato di fronte all'idea che, beh, questa parte, per come è realizzata la norma in questo senso, l'idea non è sbagliata, si rivela equa e tende a proteggere una serie di investimenti e quant'altro. Tutto sommato, perché invece sul discorso del software deve essere sbagliata. La discriminante è leggera e molto sottile, nel senso che il lavoro che è stato fatto nel trasportare quello che era tutta l'esperienza, possiamo anche dire millenaria, di quello che riguarda il diritto e quello che riguarda la brevettabilità applicato ai vari campi industriali e così via, a quello del software, è stato fatto nella maniera che sembrava più ovvia, ma che è stata anche la peggiore, la più spartana, ossia per similitudine. Ed è qui dove nasce il problema, cioè pensare di applicare al software schemi di brevettabilità presi pari pari dall'industria metallurgica piuttosto che, ha comportato che se all'inizio la cosa poteva sembrare sensata, in realtà poi si è rivelata un grandissimo sfacelo. Ed è qui dove sta il problema, ed è per questa ragione che non è accettabile il discorso della similitudine e della contrapposizione delle due cose. Ladies and gentlemen, you're such a wonderful crowd. We'd like to play a little tune for you. It's one of my personal favorites. And I'd like to dedicate it to a young man who doesn't think he's seen anything good today. Been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two. Man, pay late. Get on like Ali, Mumbai, yeah. Soap it up with racism, No, passiamo al prossimo argomento. Andiamo adesso a parlare di video. Lo facciamo sia in teoria che in pratica. Prima ci facciamo spiegare qualche nozione dal nostro Marco della redazione di Cialtroni nello spazio. E poi andremo a parlare di software per vedere e per creare video. Allora Marco, parlaci un po' di video in teoria. Che cos'è un video? Iniziamo con queste domande allora, filosofiche. Che cos'è un video? Un video fondamentalmente è una sequenza di fotogrammi che vengono ripetuti a una determinata frequenza. Normalmente si parla di 25 fotogrammi al secondo o 30, dipende dal tipo di standard che si utilizzano. E la ripetizione di questi fotogrammi non vengono visti dal nostro occhio come fotogrammi singoli, ma appunto si ha la sensazione che ci sia appunto un movimento associato a questa sequenza di fotogrammi. Esattamente come avviene nella realtà del cinema, dove una serie di fotografie sostanzialmente vengono passate una dopo l'altra. Esatto, e allo stesso modo in cui noi vediamo una lampadina accesa, mentre invece la lampadina sta lampeggiando a una frequenza di 50 volte al secondo. La stessa cosa nei video, abbiamo appunto questa immagine, questa sequenza di immagini che viene passata una alla volta. Il video televisivo, ad esempio, si sta sulle 25 fotogrammi al secondo, perché diciamo che è la frequenza che l'occhio in cui l'occhio rimane preso in giro da questa sequenza di immagini. Nel video televisivo si ha una sequenza di linee che vengono buttate sulla televisione, e si parla di 635 righe, e queste immagini vengono visualizzate una riga sì, una riga no, vabbè, non addentriamoci in questo discorso. E niente, oltre al problema di questo, allora va bene, il video digitale invece non è soltanto composto da righe, mentre invece, come è quello televisivo, il video digitale invece è composto da vere e proprie immagini, per cui abbiamo una risoluzione di un video che è data ad esempio dal numero di pixel orizzontali per il numero di pixel verticali. Negli standard, gli standard video non definiscono grandi, cioè ci sono degli standard che definiscono delle risoluzioni di video, però tipo l'MPEG ad esempio sono 350x244 pixel, se non sbaglio, e quindi negli standard appunto del video digitale l'immagine che è composta comunque sempre da fotogrammi ripetuti. Nel video digitale la cosa fondamentale che si è notata subito era il tremendo problema di immagazzinare questi video in formato digitale, perché un video può occupare svariati mega di dimensione, svariati giga di dimensione, perché se viene semplicemente visto come sequenza di immagini. Per cui sono nate le tecniche di compressione del video, che consistono fondamentalmente nel mandare un'immagine completa ogni tanto e poi di mandare soltanto le modifiche da un fotogramma con l'altro di quello che è cambiato, diciamo, nell'immagine. Per cui questo permette... Con lo stesso ragionamento che viene fatto, o con ragionamenti simili a quelli che vengono fatti per le immagini che avevamo descritto 2 settimane fa. Quindi ad esempio, Marco, è corretto dire, almeno in maniera grossolana, che se c'è una strada e un palazzo dove si muovono delle persone, l'immagine che rimane ferma è quella del palazzo e la compressione salva solo il movimento delle persone. Sì, esatto. E questa cosa si può notare praticamente oramai ovunque, perché la questione di trasformare il video in digitale viene utilizzato tantissimo anche in televisione, anche nella televisione analogica, per cui... non nella trasmissione, non dal nostro televisore, ma magari direttamente da coloro che stanno producendo il video. Ad esempio, non so se è mai capitato di vedere dei filmati in cui a un certo punto il filmato tende per un attimo a bloccarsi e un attimo dopo succedono delle cose strane, tipo degli oggetti si muovono, praticamente si vedono degli oggetti che si muovono, mentre in realtà l'immagine che si vede è proprio sfasata, cioè proprio brutta, tipo un'immagine precedente, però si vedono, non so, delle ombre che si muovono, degli effetti strani. Sono appunto, se in quel caso c'è stato un errore di trasmissione, per cui il sistema di compressione digitale ha un po' avuto problemi poi nel recuperare la trasmissione, fino a quando poi non verrà rimandato un'immagine completa che a quel punto ci aggiorna esattamente il video ricevuto. appunto questa necessità delle compressioni nei formati video ha lanciato tutta una serie di diversi formati di compressione dei video. Per cui all'inizio avevamo il primo standard di compressione del video, è stato all'incirca l'MPEG, che era nell'88. Esatto, grazie Alessandro. E da quello poi, che era tra l'altro risoluzione fissa, l'MPEG 1, ci sono state varie versioni, abbiamo avuto tantissimi, una fioritura di formati diversi dell'MPEG, di formati diversi di compressione video, che a tutt'oggi sono, non so, qualche centinaio probabilmente, perché sono veramente un'infinità. Noi al solito abbiamo un occhio sempre sulla questione della libertà o meno associata alle varie cose di cui parliamo, per cui li abbiamo catalogati fondamentalmente per tipologia di essere aperti e quindi utilizzabili senza problemi dalle persone. Quindi fondamentalmente partiamo citando il progetto Vorbis, che è un progetto che aveva utilizzato tantissimi tipi di codec, sia audio che video, e col suo ultimo progetto Teora ha delle ottime qualità di compressione, e vabbè, magari probabilmente simili a quelle della concorrenza, però hanno la caratteristica in più di essere formati aperti, liberi e liberamente distribuibili, liberamente modificabili. Perdonami. È importante sottolineare come, tra l'altro, per quello che riguarda Log Vorbis, attualmente molti degli apparecchi stile iPod, tanto per capirci, apparecchi consumer per ascoltare musica, hanno il supporto appunto per il formato Log Vorbis, e quindi sono liberamente fruibili anche su oggetti consumer. Esatto, appunto Andrea si riferiva in questo caso all'audio, però fondamentalmente per il video i prodotti della Teora hanno le stesse caratteristiche, per cui sono fruibili praticamente da tutti. Abbiamo invece degli standard video semi aperti, che ad esempio sono accessibili soltanto mediante royalties, però a quel punto si può fare praticamente tutto quello che si vuole nel campo, come ad esempio l'MPEG. Abbiamo dei formati che dovrebbero essere chiusi, però in realtà poi sono state buttate fuori delle specifiche, però non si sa bene, come alcuni formati AVI e ad esempio formati nuovi della Real Player, che non si è bene capito come sono. E poi abbiamo dei formati completamente chiusi, come il Windows Media Video, i formati Real vecchi e altri formati video. Una cosa che ho dimenticato è che normalmente quando si pensa a un video ci si dimentica del fatto che esiste anche un audio, e quindi gli stessi discorsi che ci sono stati più o meno per il video sono anche relativi all'audio, per cui anche qui la compressione è fondamentale, per cui ci permette di ridurre di tantissimo il peso del nostro filmato e quindi la possibilità di distribuirlo. E anche se bisogna dire che insomma nell'economia del file video, insomma, l'audio incide molto molto poco, di un decimo all'incirca. Quindi certo, se state comprendendo un file nel tentativo di farne un file molto trasportabile, fate attenzione anche a comprimere l'audio e non solo il video. Esatto, e ovviamente sia per l'audio che per il video è una cosa fondamentale che c'è sempre una sorta di vabbè, alla fine dobbiamo mettere da una parte il fatto di poter comprimere di più in video, però perdendo in qualità, per cui alla fine bisogna pesare entrambe le questioni, per cui un video può essere compresso perdendo in qualità, perdendo in risoluzione, facendolo più piccolo, roba abbastanza logica. E stessa cosa ovviamente anche per i formati audio. Una piccola nota giusto per curiosità: molto spesso viene chiesto come mai standard come ad esempio l'MPEG e così via fossero nati in epoche che possono sembrare molto vecchie, insomma, voglio dire l'88 eccetera, quando insomma sui computer non è pensabile assolutamente di guardarsi materiale del genere eccetera. Bisogna tenere presente che tutto nasce negli Stati Uniti a fronte della diffusione che ebbero tecnologie come il LaserDisc e i video CD e poi i Super Video CD, che vanno tuttora in utilizzo. Là sono molto diffusi tuttora, tant'è che per esempio di recente è stata fatta l'ennesima trasposizione su LaserDisc di tutta l'opera di Fellini, E che quindi, insomma, diciamo che fin da subito l'esigenza è nata proprio non tanto per l'utilizzo sul computer casalingo, ma su tutti gli apparecchi, device e quant'altro, utilizzabili a livello appunto a casa per potersi guardare film e quant'altro. E, perfetto, a questo punto possiamo un attimo passare a analizzare invece un po' di software relativi appunto alla gestione dei video. Fondamentalmente la quasi totalità delle persone di un video non interessa molto se non poterlo guardare. Qui ovviamente il problema grosso è che un player deve, cioè diciamo un software per permettersi di vedere dei video, deve supportare i codec. Codec sono gli oggetti che ci permettono di decodificare un video e quindi di guardarlo, di prendere il file in un determinato formato e di trasformarlo in una roba visualizzabile al nostro computer. Ma che estensione hanno i codec? .code? No, non ho idea. I codec dipende ovviamente dal sistema operativo, dipende dal... Sì, ma come lo distingue un file che ha un codec diverso da un altro? Per capire se esatto, ce l'ho o non sì, ce l'ho. Esatto, stavo dimenticando questa cosa. Vabbè, fondamentalmente più o meno si capisce che tipo di file è dall'estensione del file. Ad esempio, un file MPEG di solito può avere un'estensione .mpg o .mpeg. Un file AVI ha l'estensione .avi. Un file Teora Vorbis ha un'estensione che è .og. E chi più ne ha più ne metta. Cioè, esistono l'SF, l'MP4, cioè, di formati ce ne sono veramente tantissimi. E infatti è un po' un delirio ogni volta che si trova un formato in un video in un nuovo formato riuscire a capire in che formato è, trovare plugin eccetera eccetera. E che software consiglieresti per la visione di tutti questi formati senza dover impazzire? Allora, esattamente, avevamo, vabbè, fondamentalmente un po' tutti ci siamo resi conto che per guardare i filmati non utilizziamo Windows se non raramente, per cui citiamo in questo caso soltanto programmi che funzionano sotto Linux, a parte un caso che, vabbè, allora c'era un po' una guerra tra di noi su quale fosse il migliore filmato video, il miglior software per la visualizzazione di video sotto Linux. Secondo me è un programma che si chiama MPlayer, secondo Francesco e Alessandro era... Nessuno di noi due si è espresso, in realtà sta mentendo, ma... Sto mentendo spudoratamente, però fa scena questa cosa. Secondo loro due era VLC che tra l'altro è disponibile anche sotto Windows, sotto Mac OS X e ha tutta una serie di caratteristiche più avanzate che permettono di utilizzare questo VLC per scopi completamente diversi dalla visualizzazione dei video, ma per esempio per poter fare dello streaming video attraverso internet o in rete locale. E un altro progetto interessante è il progetto Xine, che anche questo è un visualizzatore semplicemente di file, forse un attimino più curato per quanto riguarda la possibilità di guardare DVD rispetto ad esempio a MPlayer e forse a VLC. Però dimmi di Francesco. No, niente, volevo appunto dire che in realtà quello che io preferisco è Xine, quello che tu hai chiamato Xine, e che appunto è quello che utilizzo di solito. MPlayer ha la possibilità, ci spiegava prima Andrea, di funzionare anche sotto Windows. Personalmente non abbiamo mai provato, né io né Alessandro, da quel che ho capito, a utilizzarlo, mentre invece Andrea dice che funziona. Videoland Client ha invece il grande vantaggio, appunto, come stavi giustamente dicendo tu, che funziona sia sotto Windows che sotto Linux, e questo per i nostri ascoltatori può essere una cosa decisamente interessante. Addirittura in netto anticipo rispetto ai prodotti commerciali, Videolan esiste anche su piattaforme portatili come Windows CE, Pocket PC, Zarus, insomma per i palmari. Sì, a latere due considerazioni giusto per la cronaca. È interessante vedere come sia il progetto di MPlayer ha potuto crescere e svilupparsi fino al supporto di tutti i formati video sostanzialmente, nel senso che ad oggi non esiste un visualizzatore in grado di supportare tutti i formati come MPlayer. Questo ovviamente non per incapacità tecnologica, ma banalmente perché MPlayer è un progetto portato avanti da dei simpatici bischeri ungheresi che se ne sono sempre altamente fregati di tutto quello che poteva essere copyright, brevetti e quant'altro. Il progetto VLC invece è nato all'interno di campus francesi, anche quello molto interessante perché nasceva già con l'ottica di poter fare broadcast all'interno di grosse realtà. Cosa vuol dire broadcast? Ne parleremo la prossima volta. Banalmente è l'erogazione alla massa di contenuti nelle varie forme. Il video on demand, insomma. Sì, che ma viene può essere anche legato alla... Insomma, è un concetto in generale che... E, non solo, ecco, il vantaggio di questi prodotti liberi è che vi danno anche una concreta possibilità rispetto ai prodotti chiusi, ossia quello di poter prendere e salvare tutto quello che sono contenuti nati per non permettervelo. Faccio un esempio molto madane, ma tanto per capirci: se voi andate a vedere nelle Techerai, dove ci sono documenti in real video molto interessanti sulla storia della televisione italiana e quant'altro, vedrete che non vi è concesso di salvare quanto fruite e guardate, che però in realtà sul vostro computer è arrivato, perché sennò non lo vedreste. Ecco, questi player hanno il vantaggio di permettervi di salvare questo e quindi poi di fare un po' quello che volete di quanto avete scaricato. Esatto. A proposito di quanto diceva Andrea, e poi chiudiamo che siamo in chiusura, proprio sul sito di Mplayer, ma comunque anche su quello degli altri player di VLC eccetera, che troverete tutti sul nostro sito come link, c'è proprio la prima pagina che annuncia come tutti questi player sono minacciati fortemente dai brevetti software, che appunto Xine, VLC, Mplayer, tutti questi software che si sono sempre che hanno sempre lavorato sull'aprire questi pacchetti chiusi, cioè sul decodificare queste cose che richiedevano appunto il pagamento di royalties eccetera, sono estremamente minacciati e rischiano veramente di dover interrompere i loro progetti se dovessero passare i brevetti software. Perfetto. Per termina oggi... così l'ennesima puntata, la quindicesima, giusto? Sedicesima di Cialtroni nello spazio, la nostra sigla. Un saluto da Alessandro, ricordate il nostro sito www.circolab.net, link sulla destra, Cialtroni nello spazio. Un saluto anche da Francesco, un ringraziamento ad Andrea che è stato qua con noi oggi. E un saluto anche da Marco, e alla settimana prossima. Io non vi saluto.